Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Torniamo dopo la pausa estiva, pronti a ripartire subito con una puntata speciale, una diciamo così aspettando Giovani Talenti. Dalla prossima settimana riprenderemo come di consueto a raccontarvi storie in presa diretta di under 40 emigrati. Oggi però abbiamo deciso di regalarvi un'anticipazione di due delle rubriche che caratterizzano da un anno e ogni primo sabato del mese la nostra trasmissione. Controesodati e l'ideogramma sono i due spazi che avete imparato a conoscere bene nel corso dell'ultima stagione. Ricominciamo proprio da loro, dalle voci e dai racconti delle due donne che sono dietro a queste rubriche. Parleremo quindi dei giovani che tornano nella penisola dopo anni di lavoro all'estero e anche degli italiani che invece continuano a inseguire il sogno cinese. Ci porremo anche domande importanti, nello specifico quanto sia attrattiva l'Italia per i suoi figli all'estero e quanto sia ancora vivo e concreto il miraggio dell'estremo oriente. Uno spunto di riflessione per cominciare però. L'Italia resta nelle retrovie per la capacità di fare leva sul capitale umano, vale a dire l'abilità di crescere, sviluppare e utilizzare i talenti della sua popolazione dalla scuola fino alla pensione. Lo evidenza lo Human Capital Index della World Economic Forum che assegna alla penisola il 34esimo posto su 130 paesi. Lo riporta il Sole 24 Ore Scuola. Sul podio si confermano Finlandia, Norvegia e Svizzera. L'Italia è penultima tra i principali paesi industrializzati. Solo la Spagna è più indietro nella graduatoria dei big. Il bel paese spreca quasi il 25% del suo capitale umano. Il vero vulnus è rappresentato dal tasso di partecipazione alla forza lavoro e dal tasso di disoccupazione. L'Italia deve fare i conti anche con la mancanza di formazione sul lavoro e con la scarsa presenza di laureati, anche se una nota positiva viene dalla diversità di competenze dei nostri stessi dottori. E non dimentichiamoci che, secondo l'Istat, la disoccupazione giovanile a luglio ha fatto registrare un forte aumento fino al 39,2%. Il paradosso da cui non riusciamo a uscire è che continua ad aumentare l'occupazione tra gli over 50, mentre i giovani restano al palo. A luglio gli occupati over 50 sono aumentati di 400.000 unità in un anno, mentre per la fascia d'età 25-34 anni si è registrato un calo di 10.000 occupati. E ora spazio alla nostra puntata speciale tra controesodati e opportunità in Estremo Oriente. On air con noi oggi abbiamo Alessia Marsigaglia dell'Associazione Italents che da ottobre dello scorso anno sta coordinando da dietro le quinte la rubrica Contro Esodati offrendoci storie di giovani rientrati in Italia. Buon pomeriggio Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Tra poco ci raggiungerà anche Manuela Verrecchia che sempre da un anno ci regala consigli dalla Cina con l'ideogramma. Ma noi partiamo con chi torna. Il punto di non ritorno cantavano anni fa i Century, ma esiste per i nostri giovani all'estero anche un punto di ritorno. È così, Alessia? Sì, assolutamente. Perché? Allora, diciamo che i controesodati ci sono, esistono e sono un fenomeno ancora poco conosciuto, sono un po' delle mosche bianche, però hanno il loro perché e soprattutto tornano la maggior parte delle volte perché vogliono cambiare le cose o almeno provarci. C'è questo spirito ideale in qualche modo. E Alessia, riassumiamo un anno di questa rubrica controesodati, anche se in realtà da molto più tempo ti occupi delle storie di chi era entrato in Italia per il sito di Italents. Chi è Alessia il controesodato tipo? Che idea ti sei fatta? Ovviamente il tipo si delinea a seconda delle motivazioni che lo spingono al rientro. Se dovessi trovare una caratteristica comune, direi che sono persone con un alto livello di preparazione, sia in ambito lavorativo che in ambito studio, che decidono appunto di rimettersi in gioco nel proprio paese. Spesso si scontrano con una realtà distante, ma spesso si riappropriano anche delle proprie radici. E sicuramente hanno imparato, stando fuori, a relativizzare il bello e il brutto dell'Italia. Quindi non danno più per scontate certi aspetti positivi del nostro paese e hanno anche un po' capito come muoversi tra il brutto, insomma, di questo paese. Tu prima hai citato una spinta un po' ideale di cambiare meglio le cose. Al di là di quello, cosa li spinge a tornare in Italia? Motivi più professionali o familiari? Allora, diciamo che sicuramente i motivi familiari ci sono, ma la maggior parte hanno proprio voglia dell'Italia, cioè dello stile di vita e di certi vantaggi che il paese gli offre. Penso ad esempio alla sanità piuttosto che alle scuole, che noi diamo per scontate, non sono in realtà all'ordine del giorno in molti paesi europei e soprattutto ex europei. Poi ci sono anche quelli che tornano perché hanno opportunità lavorative, o meglio, le trovano cercandole in Italia. E quindi poi decidono di tornare. Ci sono storie che ti hanno particolarmente colpito? Sicuramente tutte hanno un fascino loro. Diciamo che mi hanno colpito soprattutto quelle di chi torna facendo una sorta di salto nel vuoto, nel senso che vogliono in qualche modo restituire all'Italia quello che loro hanno preso, almeno così mi raccontano, a livello di formazione, a livello di proprio modo di vivere. Quindi se ne vanno, acquisiscono un bagaglio culturale e poi ritornano proprio per ridarlo al loro paese. Non sempre tornano con un lavoro, spesso creano start-up e valorizzano anche le doti che l'Italia ha, quindi il cibo piuttosto che il turismo, e intraprendono questo tipo di professioni ed è molto interessante perché diciamo aggiungono o mettono insieme tradizione con innovazione. Un punto importante: chi torna per lavoro trova quei canali di assunzione meritocratici e anche dei percorsi di crescita chiari all'interno delle aziende che spesso si vedono offrire all'estero. Purtroppo devo dire quasi mai, dico quasi mai per non generalizzare, però anche come conferma l'ultima ricerca che Italens ha presentato lo scorso anno all'Eventum Italens che tiene tutti gli anni, il ritorno non coincide quasi mai col miglioramento lavorativo. Molti trovano ancora pochi finanziamenti alla ricerca, nel caso appunto degli universitari ricercatori, per chi lavora basse remunerazioni, poca meritocrazia e spesso un blocco culturale all'innovazione, quindi diciamo che hanno un forte spirito di adattamento, cercano di cambiare le cose, ma non è facile, sicuramente non è facile. Hai l'impressione che cerchino un contesto di lavoro internazionale in Italia quando rientrano? Assolutamente sì, anche perché diciamo che sono proprio le imprese di quel tipo a cercare i controesodati, nel senso che il conoscere più lingue è un plus, così come sanno valorizzare al meglio il bagaglio culturale che questi ragazzi portano con sé. E chi torna da imprenditore trova un'Italia ancora troppo burocratica oppure vede dei segnali di miglioramento nel fare impresa? Diciamo che la burocrazia regna ancora insieme alle tasse troppo elevate e alla scarsa collaborazione delle varie istituzioni, insomma, per fare impresa. Un aspetto interessante di cui mi hanno parlato in molti è che si aiutano tra di loro, cioè tra imprenditori. Chi ci è già passato aiuta quelli nuovi e questo succede soprattutto nel mondo delle start-up. A livello invece generale c'è molto molto molto da lavorare. Un po' l'hai già anticipato, è bello raccontare come riscontri due reazioni a rientro: chi si rassegna e chi invece prova a cambiare le cose. Rassegnazione da una parte e rivoluzione dall'altra, per semplificare. Cosa innesca queste due reazioni? Allora, diciamo che più che di rassegnazione parlerei di spirito di adattamento. La rassegnazione l'ho trovata tra quelli che non tornano per volontà, cioè tornano per motivi sostanzialmente esterni al loro desiderio, mentre lo spirito di adattamento porta sempre con sé anche la voglia di cambiamento, quindi più che contrapposti le vedrei come unite. Si schiantano poi con la realtà, ma già nel loro piccolo comunque fanno una rivoluzione perché portano la loro diversità all'interno dei contesti lavorativi o nel loro modo di fare impresa. Diciamo che in tutti cercano di non farsi inglobare dal pessimismo e cercano di guardare oltre, per cui ecco, c'è questo spirito di voglia di fare che comunque li mantiene attivi. Guardando ora l'altra faccia della medaglia, che impressione ti sei fatta sulla capacità italiana di riuscire a trattenere questi giovani dal profilo internazionale che provano a rientrare, sulla capacità di attrattività reale dell'Italia al di là delle parole? Il caso della legge contro esodo, cancellata nei fatti dopo soli 4 anni di operatività, resta abbastanza clamoroso, Alessia. Assolutamente sì, anche perché direi che l'Italia ci prova a riaccoglierli, ma non lo fa con convinzione, nel senso che il pasticcio della controesodo, che prima è stata annullata, poi prorogata, poi è stata rifatta, ne è un esempio chiaro. Però adesso c'è, da maggio è operativa, il punto è che va diffusa, perché praticamente non la conosce nessuno. Tantissime che io ho sentito conoscono persone che non ne hanno potuto beneficiare o che comunque non tornano e non sanno di questa legge. Certo, poi va cambiato anche molto altro, perché la controesodo non basta, anche perché ha una finestra di tempo ben limitata, quindi i giovani o anche i meno giovani che comunque rientrano cercano di più, cercano comunque soprattutto a livello imprenditoriale tasse inferiori, incentivi. E una cosa interessante è che tutti mi fanno notare che non solo l'Italia dovrebbe essere attrattiva per gli italiani usciti, ma dovrebbe essere attrattiva anche per gli stranieri, che potrebbero portare professionalità, una cultura diversa all'Italia stessa, e quindi andrebbero ad arricchire il tessuto sociale italiano. Questo è un punto assolutamente importante, attrattivi non solo per i nostri espatriati, ma per gli stranieri in generale. In una battuta, Alessia, effetto Brexit, qualcosa di buono può succedere per noi? Allora, io credo di sì, nel senso non tanto per chi già lavora lì e è vicino, diciamo, ai 5 anni che permetterebbero di avere la residenza, quindi per loro non credo cambi molto. Credo invece sia importante nell'ambito universitario, perché volenti o nolenti la Gran Bretagna adesso sarà esclusa da quelli che sono i bandi e le gare e i fondi europei per la ricerca, quindi le nostre università dovrebbero imparare ad essere più attrattive, ma soprattutto a snellire la macchina burocratica che sta dietro, perché i ricercatori sono validi, gli insegnamenti che danno sono validi, serve snellire la macchina burocratica per essere competitivi in questi concorsi, visto che c'è un concorrente in meno, e quindi attrarre più fondi nel nostro paese, cosa che permetterebbe assolutamente di migliorare la situazione e di dare la possibilità ai nostri ricercatori di non dover cercare fuori sbocchi interessanti. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questo Aspettando Giovani Talenti ci concentriamo sulle nostre due rubriche perno in onda ogni primo sabato del mese, tra controesodati che tornano in Italia e connazionali che emigrano in Cina. Ci spostiamo adesso proprio verso l'estremo oriente. Ci raggiunge ora in linea Emanuela Verrecchia, che da circa un anno si occupa e realizza ogni mese la rubrica Lidogramma. Buon pomeriggio, Emanuela. Ciao Sergio. Emanuela, allora, facciamo un po' il bilancio di questo primo anno dell'Lidogramma con una semplice domanda che ti pongo. Consiglieresti oggi a un amico o a un'amica di fare le valigie e partire per la Cina? Ma consiglierei sì, perché sempre è un'esperienza interessante e arricchente, e conoscere la Cina dai giornali, dalle letture, non è mai come conoscerla stando qua. Però francamente sempre più consiglio ai giovani che mi chiedono come venire in Cina di pensare magari se fare un'esperienza anche da qualche altra parte, perché il problema dell'inquinamento non è indifferente e può essere anche interessante conoscere posti da cui si impara molto senza doversi poi necessariamente prendere un malanno. Quindi oggi tra la Silicon Valley e la Cina probabilmente preferirei la Silicon Valley. Molto interessante questo tuo approccio molto critico e realista, che dopo tutto hai rispecchiato un po' in quest'anno dell'Lidogramma sulle possibilità concrete che ci sono in Cina. Ti chiedo anche qual è l'identikit, il profilo dello straniero che emigra in Cina, innanzitutto di chi ci va per lavoro. Innanzitutto tecnici, ingegneri, periti, sono anche ricercate sempre più figure di creativi come architetti, che sono piuttosto frequenti qui in Cina, ci sono anche molti architetti italiani. Vedo gente che lavora nel mondo della moda come creativo per disegnare delle collezioni e di recente mi è anche capitato di intervistare e di conoscere un paio di musicisti italiani che lavorano in orchestre cinesi. E chi va invece per studiare? Oltre ai tradizionali sinologi che vengono dalla Ca' Foscari o dall'Orientale o da altre facoltà italiane in cui si studia il cinese, sempre più sono i giovani che studiano tutt'altro ma fanno un programma integrativo in Cina, un semestre organizzato da un'università pubblica o privata. Sono sempre di più i corsi un po' in tutte le università italiane che organizzano degli scambi con la Cina, e questi sono sicuramente un approccio molto utile secondo me per un giovane, perché permette un inserimento con un programma di studio, un contatto con la lingua e anche una facilitazione a livello burocratico, perché oggi venire in Cina a fare lo stage, come abbiamo parlato anche nell'ideogramma, non è più così facile come un tempo. Proprio a proposito di quale ambiente si trova di fronte uno che va in Cina per questioni di lavoro, di impiego, quali sono le condizioni che questo paese offre adesso a livello generale? Direi la qualità di vita è bassa, e quando dico qualità di vita bassa non mi riferisco alla mancanza di ristoranti, luoghi di divertimento, cioè non stiamo male noi expat che viviamo qua, però c'è una qualità della vita intesa come lifestyle bassa, a partire proprio dal, direi prima cosa, dall'inquinamento. Il lavoro è sicuramente interessante, anche se sempre più è indispensabile ricercare delle nicchie in cui si fa qualcosa che serva alla Cina, perché venire in Cina a cercare lavoro senza un progetto molto chiaro in testa e delle capacità già diciamo studiate ad hoc per la Cina oggi non serve più a molto. Quindi io francamente trovo che dal punto di vista della qualità della vita, ne parliamo anche spesso nel nostro gruppo di amici, di expat, ci sia in generale una Cina più difficile, soprattutto a causa dell'inquinamento. Però ci sono dei settori di lavoro dove c'è richiesta di professionisti, diciamo pure occidentali? Sì, continuano a esserci dei settori in cui la Cina non si sente ancora sufficientemente all'altezza, e quindi ricerca talenti stranieri. Sono i settori che poi vengono anche indicati nei vari piani quinquennali o Made in China Plan 2025, di cui abbiamo parlato in una delle scorse trasmissioni, come la robotica, come le green energy, come i trasporti, le telecomunicazioni, in cui peraltro loro sono molto bravi, ma comunque si ricercano anche sempre talenti stranieri. Per cui se si è in questi settori sicuramente c'è spazio per venire a lavorare in Cina. Secondo te è meglio cercare lavoro da soli, cioè in loco, andando direttamente in Cina, oppure trovare un contratto da expat con un'azienda italiana o anche straniera? Abbiamo fatto anche una riflessione qualche mese fa nell'ideogramma. La mia impressione, anche dopo essermi consultata con alcuni cacciatori di teste, è che si debba distinguere, cioè se si è dei top manager alla ricerca di un buon contratto in Cina, allora conviene partire dall'Italia con una ricerca fatta con degli headhunter, per poi avere un pacchetto più interessante, un pacchetto da expat dove spesso è previsto il pagamento dell'affitto della casa, dell'autista se c'è da andare in zone industriali remote, quindi è preferibile avere la macchina anziché usare i mezzi pubblici, per chi ha i figli e la scuola, che è una spesa che incide non poco sul budget delle famiglie. Se invece si è dei giovani un po' più all'avventura, si può anche cercare qua in loco, ma bisogna farlo in fretta perché poi ci sono dei problemi di visto, o se si è già qui e si sta cambiando lavoro, lo si può anche fare qui, e si ha una formula che noi in gergo chiamiamo halfpat, cioè abbiamo non tutti i benefici che ha l'expat, ma alcuni benefici come l'assicurazione medica, un viaggio pagato per andare in Italia. Le occasioni qua forse sono più frequenti dal punto di vista quantitativo, ma probabilmente meno interessanti dal punto di vista qualitativo se si cerca un lavoro di alto profilo. Allora, con te lo abbiamo detto spesso, la Cina non è solo Pechino o Shanghai, ma esistono tante città di seconda fascia, Emanuela, che in Italia contano più abitanti anche di Roma, ma che per l'estremo oriente sono, diciamo, pure medie. Lì si possono trovare occasioni migliori, professionalmente parlando? Professionalmente parlando probabilmente sì, anche perché sono a volte delle città così brutte, penso a Chongqing, penso, adesso forse magari qualcuno si indigna che è contento, penso a Changsha, sono talmente brutte che se non ti ricoprono di oro, incenso e benefit, non trovano nessuno, né le aziende italiane né le aziende cinesi. Dal punto di vista professionale poi può essere un'esperienza interessante, ma dal punto di vista della vita nel lungo periodo diventa difficilmente sostenibile. È chiarissimo. Qual è il sentimento, Emanuela, all'interno della comunità di expats occidentali in Cina, italiani ma anche non solo? Confermi che molti stanno facendo le valigie? Sì, confermo, ci sono tantissimi stranieri che stanno partendo, chi ha i figli che va nelle scuole mi dice che alcuni alcune scuole straniere si stanno riducendo ai minimi termini. La mia fruttivendola, persino, che serve a molti stranieri qua nella concessione francese di Shanghai, si lamenta che oramai gli stranieri sono pochi. Tendenzialmente molti stranieri adesso stanno lasciando un po' a causa del problema dell'inquinamento, che non è di poco conto, e un po' anche perché le occasioni professionali si stanno riducendo, cioè bisogna essere veramente competitivi e la Cina non è più per tutti. Emanuela, per riallacciarci ora anche idealmente all'intervista di prima, di poco fa, con Alessia Marsigaglia, tra chi fa le valigie dalla Cina la tendenza è più quella di rientrare in Italia e rimettersi in gioco qui nella penisola o restare comunque all'estero? Quanto considerano l'Italia attrattiva? Anche vedendo le discussioni sul mio gruppo Italiani in Cina su LinkedIn, mi sembra che il trend sia che la maggior parte degli stranieri che lascia la Cina non rientra in Italia. C'è chi resta in Asia e predilige destinazioni come Hong Kong, Singapore, Vietnam, altri partono per il Sud America o per gli Stati Uniti. C'è anche chi è rientrato in Italia per poi ritornare in Cina. In Europa mi sembra che oggi molti siano attratti da paesi che offrono ancora qualcosa dal punto di vista professionale, come Germania, Svizzera, Olanda. Rientrare in Italia però è il desiderio di molti, devo dire, ma professionalmente è quasi impraticabile. E allora, Emanuela, prima di darci appuntamento a ottobre, il primo sabato di ottobre, con le nuove puntate dell'Ideogramma, ti chiederei di riassumere un po' in breve che Cina è quella del 2016, quanto sta cambiando anche a livello economico e di innovazione rispetto ai cliché con cui spesso la dipingiamo anche noi nei media internazionali. È una Cina sicuramente molto interessante, in rapidissima evoluzione e diversa da quello che spesso si legge in certi giornali o si vede alla televisione. Una Cina, direi, quasi avveniristica per certi aspetti, se pensiamo ai progetti, alle start-up nel settore dei trasporti, delle vetture elettriche, delle telecomunicazioni. È una Cina ambiziosa, gestita da leader che sono molto focalizzati sul raggiungimento di obiettivi chiari entro determinate date. Loro dicono: noi entro il 2025 dobbiamo arrivare qui con questo e questo obiettivo, entro il 2032 dobbiamo arrivare a questo obiettivo. Se non sapremo adattarci alla capacità della Cina di trasformarsi, alle sue esigenze di qui e adesso, e applichiamo i nostri tempi italiani, a volte un po' troppo dilatati, non possiamo realisticamente pensare di fare alcun progetto di business con la Cina. È importante anche riconoscere che la Cina sta facendo innovazione, contrariamente a quello che si dice, sta facendo ricerca e sviluppo, e laddove non riesce con le proprie risorse compra comunque tecnologie, oppure mette a capo dei propri reparti di ricerca e sviluppo figure straniere che le aiutano comunque nella sua corsa. E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Giovani Talenti Radio 24 o nella pagina Giovani Talenti. Siamo presenti anche su LinkedIn con il gruppo La Fuga dei Talenti e potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. Aspettiamo dunque le vostre domande, le vostre idee, proposte, riflessioni, denunce. Per mettervi in contatto con noi è molto semplice, basta scriverci a giovanitalenti@radio24.it. E vi ricordiamo pure che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 per la prima puntata della serie autunnale del programma. Sarà una puntata, vi anticipiamo fin d'ora, assolutamente speciale, nella quale torneranno a trovarci eccellenze italiane under 40 al lavoro per l'Eurasia. Non perdetevi la puntata di sabato 17 settembre, perché potrebbe essere di grande ispirazione per chi tra voi sta pensando a un futuro professionale all'estero. E allora, per congedarci, un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.